Storiacce d'autore, a cura di Raffaella Calandra, in collaborazione con Milano Nera. Uno scrittore, un fatto vero e un testo composto proprio per noi. Ogni domenica in queste storiacce la cronaca la ascolterete dalla voce e dalla penna di un autore, sempre a partire da un fatto vero. Anna, Francesca, Lucia e molte altre ancora. In Italia più di 1 milione di donne sono state vittime di stalking, il più delle volte dai loro ex. Io sto benissimo da quando non ci sei più. Dal giorno che mi hai mollato, sai, intendo dire mollato sul serio, in via definitiva, non tutti quei no che erano come stilettate nel costato, ma mi lasciavano ancora una speranza, quei no come andiamo a letto? No. Oppure dai, ti porto fuori a cena? No. O anche prendiamo la macchina, andiamo a fare un giro in quel posto dove ci siamo conosciuti, ti ricordi? No. Questi erano ancora dei no sopportabili. Io dico, dopo quel no grande, enorme, conclusivo, la pietra che hai messo sopra il nostro amore, che ormai era diventato il mio amore, quando ho scoperto che ti vedi con quell'altro e che addirittura sei incinta, insomma, ecco, da quel giorno, che per me è il giorno vero in cui mi hai lasciato, la mia vita è cambiata in meglio. Scusami se te lo dico, non rimanerci male, ma è la verità. Io da allora mi sono messo il cuore in pace e sto bene finalmente, perché ho smesso di tenermi dentro questa bestia che mi mordeva, mi divorava un pezzo alla volta. E ho aperto la porta e l'ho lasciato uscire, anzi ho dovuto proprio cacciarlo fuori a bastonate, ecco, bastonate così, capisci? Forte, poi ancora più forte, ho dovuto colpirlo, quell'animale che mi rosicchiava l'anima e il futuro come un topo. E non era altro che la maledetta voglia, la stramaledetta speranza che non fosse davvero finito tutto, che tu il mio amore non l'avessi davvero schiacciato sotto i piedi così, vedi, così, il mio amore ridotto a una poltiglia sotto i piedi, il mio cuore un'immondizia, uno schifo, questo hai fatto tu. E allora te la devo dire tutta la verità, che io da quel giorno, che poi è stato solo 2 settimane fa, mi sono sentito allargare dentro come una grande marea acida che mi spurgava, mi ripuliva dalle scorie di questo amore disprezzato e deriso, e per qualche giorno sono stato malissimo, ma poi di colpo è arrivato un senso di liberazione, mi è sembrato di staccarmi da terra e alzarmi verso un cielo che finché stavo insieme a te non ero più capace di vedere, me l'ero addirittura dimenticato quanto fosse bello stare da solo, padrone di me stesso, e darmi gli ordini e obbedirmi, o addirittura a volte disobbedirmi, anche questo è divertente, sai, e dire a me stesso ora vai a letto, oppure oggi niente pizza, solo insalata che sta ingrassando, e qui mettevo il broncio perché la pizza mi piace troppo e comunque, come la facevi tu, era più buona che farla arrivare nel cartone dalla pizzeria, che tante volte non si capisce dove finisce il cartone e dove comincia la pizza, o forse la pizza è fatta proprio di cartone con sopra tutta una cosa unta di pomodoro, mozzarella gialla, ma insomma stavo sdraiato tutto il giorno sul divano, che ricordi bene, e guardavo la TV, non hai idea delle stronzate che fanno vedere specialmente di mattina, e mi davo questi ordini, obbedivo, oppure facevo di testa mia, per esempio con la pizza e l'insalata, e ho anche provato a telefonare ai vecchi amici, a mia mamma, e facevo tutte queste telefonate per evitare di chiamare te, di sentirmi trattare di nuovo come se fossi un sacco di pattume, questione di amor proprio, capisci? E solo che questi amici del cazzo erano tutti fuori a lavorare e mia madre attaccava certe lagne con tutti i mali che ha, e la cervicale, la tiroide e quell'altra malattia che si bucano le ossa, e non era bello starla a sentire, intanto pensare a te a letto con quel maiale, capisci, vero? E pensare alle sue mani addosso a te che magari ti piaceva, e allora avevo un bel dirmi, ordinarmi e comandarmi: no, il coltello lascialo giù, no, al massimo le dai 2 schiaffi, ma il coltello lo devi lasciare a casa. E io ce l'ho messa tutta a obbedirmi, perché sentivo che mi stavo cacciando nei casini quelli grossi, e mi ripetevo che bastava darti giusto quei 2 schiaffi, così, e così, e così, ma alla fine non ce l'ho fatta, è stato come se il coltello mi si infilasse da solo nello zaino, giuro, e da solo c'è entrato, e adesso eccolo qui, e lo so, e io lo so che non mi sentirò meglio fra un minuto, lo so che fra 5 minuti starò male, e fra 10 starò malissimo, e sarò pentito e vorrò ricucirti la gola, ma intanto lo devi capire quello che mi hai fatto, lo devi capire che mi hai spaccato in due, lo devi capire come ci si sente tu, lo devi capire, basta, basta! Raul Montanari, in libreria con Il tempo dell'innocenza, Dalai Editore, 275 pagine, 17,50 €. Per riascoltare e scaricare tutte le storiacce d'autore, il sito è radio24.it. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce, sul blog Storiacce, su Twitter invece l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti, al prossimo weekend.